Vicolo Corto, Vicolo Stretto, Stazione Sud. Bastioni Gran Sasso, Viale Monterosa, Viale Vesuvio. Via Accademia, Corso Ateneo, Piazza Università e in mezzo la Società Elettrica, Stazione Ovest. Via Verdi, Corso Raffaello, Piazza Dante. Via Marco Polo, Viale Magellano, Largo Colombo, Stazione Nord. Viale Costantino, Viale Traiano, Piazza Giulio Cesare. Via Roma, Corso Impero, Largo Augusto, in mezzo alla Società Acqua Potabile, Stazione Est. Viale dei Giardini, Parco della Vittoria. Eccola qui, la filastrocca che ha incantato almeno 4 generazioni di ragazzi italiani. Più ecumenica di Zoff, Gentile, Cabrini, Oriali, Collovati, Scirea e così via. E perfino, se mi passate la blasfemia, di Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Perché? Perché la formazione dell'Italia che ha vinto i mondiali nell'82 la conoscono gli appassionati di calcio. Il Padre nostro lo conoscono i cristiani. I Monopoli, tutti. Lo conosciamo tutti. E ce lo ricordiamo con la stessa nostalgia e tenerezza che proviamo quando rivediamo le foto di quando eravamo ragazzi. Un po' ci vergogniamo per come eravamo vestiti e pettinati, però poi sorridiamo vedendo quella ragazzina, quel ragazzino che ci faceva tanto sospirare. Ci pensiamo, chissà che fine ha fatto. Ecco, il Monopoli fa questo effetto qui, fa sorridere, perché ci riporta un'epoca spensierata, un'epoca in cui le uniche cose che ci interessavano erano guardare la televisione, indovinare quello che la mamma avrebbe fatto da mangiare la sera e aspettare la domenica per andare al parco, il Natale per scartare i regali. Un'epoca in cui si aveva tempo per partite interminabili, che a volte non finivano neanche, cominciavano, cioè finivano il giorno dopo. Ecco, i Monopoli faceva lo stesso effetto che oggi fanno per i ragazzi l'iPad o lo smartphone. Ipnosi. Sospensione del tempo. E pianti solenni se eravamo costretti a smettere. Quello che oggi per i ragazzi fa uno schermo di cristalli liquidi che si spostano con le dita, ai tempi lo faceva un tabellone di cartone rigido, con delle schede rettangolari e dei segnalini di legno mal colorati. Ci faceva andare in un'altra dimensione spazio-temporale, dimenticavamo il tempo che passava, il freddo, il caldo, dimenticavamo perfino il nostro nome, perché venivamo chiamati con i segnalini che sceglievamo. E tu, funghetto, hai fatto 5, non 6, sei sul Largo Augusto, il mio, paga. Paperella, dai, pesca gli imprevisti che magari viene fuori, va in prigione senza passare dal via. Ci si identificava talmente tanto con i segnalini che se uno non poteva avere quello preferito, non giocava. Ah no, no, no, no, io se non prendo quello io non gioco, ma l'ho scelto prima io, non me ne frega niente, me ne vado. Monopoli mio, me lo porto a casa. Il mio preferito, se lo volete sapere, era il fiasco di vino, a 8 anni. Si doveva già immaginare qualcosa. Ho conosciuto il Monopoli in un'epoca antica, un'epoca in cui tutte le partite di calcio del campionato di Serie A iniziavano alle 14:30 la domenica, un'epoca in cui gli sci e i surf erano fatti di legno e non di altro materiale. E quando ci si dava un appuntamento ce lo si dava preciso, non poi quando sono in zona ti chiamo. I giochi da tavolo erano una cosa seria, avevano un senso. Per noi ragazzi erano la possibilità di starcene in cameretta senza che i grandi rompessero le scatole. Per i grandi erano la possibilità di confinare i piccoli in cameretta senza che rompessero le scatole. Le scatole non dovevano rompersi. Parlando di scatole, mi viene in mente la scatola. E beh, ma ve la ricordate la scatola del Monopoli? Quella vecchia, quella originaria. Bianca, rettangolare, con in alto a sinistra la foto del tabellone, in basso a destra il disegnino della mascotte, un omino, Rich Uncle Pennybag, una specie di rocker duck un po' più cicciotto, con la massina, la tuba, il simbolo del dollaro e 2 locomotive che uscivano da dietro. Nel centro, una bella striscia rossa e dentro la scritta bianca, Monopoli, con la I, non con la Y, che si sarebbe dovuto pronunciare Monopoli, è vero, però si pronunciava Monopoli per pronuncia inglese. D'altronde il nome ha dovuto cambiarlo l'editrice giochi quando nel 1935 ha commercializzato per la prima volta il gioco in Italia. Se era nell'Italia fascista, non poteva esistere un gioco con un nome inglese che finiva con la Y. La Y non esiste nel vocabolario italiano! Via la Y! Mettiamola I! Ma poi lo si pronuncia comunque Monopoli perché fa più figo. E vabbè, chi se ne frega se è sbagliato. Tutti penseranno che riguardi quella simpatica cittadina pugliese e non una forma di vendita con un unico venditore. Sì, perché per questo si gioca. Per arrivare a un monopolio. Si parte in tanti, si arriva in uno solo. C'è scritto espressamente, nelle regole del gioco, che si leggono religiosamente prima di ogni partita. C'è scritto testualmente: scopo del gioco è quello di trarre profitto affittando, comprando, vendendo le proprietà situate intorno alla tavola con l'obiettivo di diventare il giocatore più ricco e possibilmente il monopolista. Cioè, quindi, si investono quel po' di soldi che si hanno all'inizio, che vengono rimpolpati a ogni passaggio dal via da 20.000 lire, si investono come? Affittando, comprando, vendendo. E poi? Beh, e poi si costruiscono case e alberghi. E poi? Poi basta. Si sta lì, si campa di rendita. Facendo pagare i poveri sfigati che arrivano sulle nostre proprietà solo per il fatto che sono arrivati lì, anche contro la loro volontà. Non si creano posti di lavoro. Non si pagano tasse sul reddito, non si alimentano i consumi, insomma non si fa nulla di quello che sarebbe utile per una comunità. Anzi, il concetto di comunità è abbastanza estraneo alle regole del Monopoli, dove quello che bisogna fare è arraffare il più possibile, essere veloci, spregiudicati, comportarsi da parassiti, zecche ignobili la cui unica, il cui unico interesse è quello di distruggere tutto e tutti e fregarsene delle disgrazie altrui. Insomma, alla fine lo scopo del Monopoli è quello in pratica di diventare dittatore di un deserto fatto di strade, case, alberghi, dove non camminerà mai nessuno. Hanno pensato a tutto questo? Le anime belle che impediscono ai propri figli di guardare la televisione o di usare lo smartphone perché è diseducativo e poi regalano a Natale il Monopoli perché così si gioca con i vecchi giochi di una volta? Non è per questo motivo che l'hai inventato nel 1904, Lizzie McGee. Altro. Lo so. Qualcuno, magari fra il pubblico che è ben informato, potrebbe dirmi che la Vulgata è un'altra. In effetti la Vulgata è che il Monopoli è stato inventato nel 1933 da Charles Darrow, un ex venditore di caldaie di Filadelfia, disoccupato per colpa della Grande Depressione, con moglie a carico e soprattutto a carico figlio disabile grave che ha bisogno di cure continue e costose. Da una posizione tutto sommato benestante, borghese, piccolo borghese, medio borghese, è diventato povero e quindi è in preda alla più cupa disperazione. È da solo nel suo garage di casa e inventa il Monopoli. Allora, qualcuno mi deve dire che cosa c'è nei garage americani. Cioè, gli elettroni della creatività ci sono. Cosa c'è? È Bill Gates, è Steve Jobs, è Charles Darrow. E che caspita, nei garage italiani mettiamo le macchine, basta. Questi qua cosa fanno? Vabbè, comunque, parte questo. Inventato il Monopoli, Charles Darrow ci gioca un po' con gli amici, dice lui. E poi lo propone alla più grande azienda statunitense di giochi da tavolo, la Parker Brothers, che peraltro è sull'orlo della bancarotta. L'accordo frutta tutti e due. Darrow diventa milionario, la Parker Brothers si assicura praticamente profitti stratosferici e illimitati. Una fantastica storia di riscatto americano, non c'è che dire. Peccato che non sia vera. Cioè, no, allora, Darrow effettivamente vende il gioco alla Parker Brothers, questo è vero. Ma non l'ha mica inventato lui. No. Ci ha giocato una sera a casa di Charles Todd, che è un vecchio amico della moglie, che l'ha imparato da Ruth e Eugene Harvey, che si sono stabiliti a Filadelfia nel 1932, a cui l'hanno insegnato Ruth Hoskins e Sid Hoskins, due insegnanti di Atlantic City, che hanno giocato tantissimo a quel gioco che hanno imparato dall'amico Pete Duggett di Indianapolis, che ha pitturato tanti tabelloni fatti a mano di quel gioco a cui giocava quando era nel college insieme all'amico Daniel Lehman. E via così, in questa specie di incredibile fiera dell'est, dove un sacco di persone giocano per anni e si divertono come dei pazzi a questo gioco dei monopoli, così viene chiamato, senza pensare di brevettarlo o di commercializzarlo, ma d'altronde nessuno penserebbe di brevettare, che ne so, scopone scientifico o scala 40. E senza che nessuno di questi qua sappia chi diavolo l'abbia inventato sto gioco, da dove viene. E se lo sapessero, ne resterebbero tutti molto stupiti. Adesso bisogna un po' del vostro aiuto. Tranquilli, non è il momento dell'audience engagement. Tranquilli, non dovete fare niente di particolare, però vi chiedo di focalizzare la vostra attenzione, di concentrarvi molto, perché vi sto chiedendo uno sforzo di immaginazione veramente notevole. Mi rendo conto che è complicato, però proviamoci. Siete con me? Sì. Ah, dai, così mi piacete. Allora, immaginate gli Stati Uniti d'America. Questa era facile, eh? E sono più difficile. Allora immaginate che gli Stati Uniti d'America siano un luogo dove quello che uno guadagna se lo mette in tasca senza pagare le tasse. Non ci sono tasse sul reddito. Immaginate che sia un luogo dove tutti pensano che quello che c'è in natura, compreso la terra, sia appannaggio dell'umanità intera. E quindi chi possiede un pezzo di terra deve pagare una tassa per il solo privilegio di possedere un bene comune. Immaginate che questa sia l'unica tassa esistente, infatti si chiama single tax, e che la maggior parte dei redditi provenienti da questa tassa vanno a vantaggio di chi, per mille motivi, di redditi non ne ha. Immaginate che tutte le azioni del governo siano rivolte a impedire l'accumulo parassitario di ricchezza. Immaginate che gli Stati Uniti d'America sia un luogo dove elettricità, acqua potabile, fognature, trasporti di persone, tutti pensano che siano un bene comune, quindi che debba essere gestito dallo Stato e non dai privati, e che lo Stato debba darlo gratuitamente ai propri cittadini. Gli Stati Uniti d'America. Questa roba qua. Fantascienza. Eppure, c'è stato un momento, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, più o meno, dove queste cose qua avrebbero potuto essere realtà. Negli Stati Uniti d'America, che già allora sono la prima potenza economica mondiale, un luogo sede di patrimoni leggendari come Carnegie, Rockefeller, Rothschild, un luogo dell'American Dream, della libertà, del possesso, del progresso illimitato. Ecco, un posto fatto in questo modo, o forse proprio perché è fatto in questo modo, è stato un posto che per un certo periodo poteva essere sede di queste idee che ancora oggi ci sembrano abbastanza balzane, alcune almeno. Figuriamoci nel 1879, quando esce un libro che si chiama Progresso e Povertà, che diventa subito un bestseller. Chi l'ha scritto non è un pazzo rivoluzionario, no. È un mite ex giornalista quarantenne che da Filadelfia è andato in California a cercare fortuna. Si chiama Henry George. È sposato, ha 4 figli, ha conosciuto la povertà, sa quello di cui sta parlando. Oltre a queste cose che ho detto, nel suo libro parla di diritto di voto alle donne, di introduzione dell'antitrust per minimizzare l'accumulo di ricchezza, di voto segreto, di abolizione della schiavitù. Tutte cose che oggi, se non fossero possibili, scenderemo in piazza. Giusto? Ah, ecco. Tanto per capire con chi mi stavo confrontando. Per carità, per carità. Ecco, in un paese che incomincia a farsi delle domande sulle disuguaglianze sociali, Progresso e Povertà vende in poche settimane 3 milioni di copie. Arriva però solo al secondo posto nella classifica dei libri più venduti, perché al primo posto c'è la Bibbia. È inscalfibile. Arrivare secondo è come vincere. E quindi Henry George incomincia a essere chiamato a tenere conferenze dappertutto, in cui dice frasi memorabili, importanti, come la schiavitù esiste ancora. Si chiama schiavitù sul lavoro. E l'opinione pubblica si deve sollevare contro di essa. E quando qualcuno gli fa notare che è un marxista, lui dice no. Marx sta sbagliando tutto, perché se quello che dice diventasse realtà, si avrebbe la peggiore delle dittature. Profetico, oltre che filosofo. Nel 1881 il New York Times, quindi il più autorevole quotidiano mondiale praticamente, dice chiaramente che Henry George non è un giacobino comunista, ma è semplicemente uno studioso che studia il malessere sociale, che tra l'altro rispetto agli altri studiosi almeno ha una soluzione, che è la single tax. Tutto questo lo porta a candidarsi nel 1886 a sindaco di New York come indipendente, con ovviamente la single tax come programma, ma nel programma ci sono anche altre due cose fra le altre, cioè la parità di salario fra uomo e donna e il divieto per la polizia di intervenire in manifestazioni pacifiche. In entrambi i casi anche oggi ci sono ampi margini di miglioramento. Non vince per pochissimo, vince di poco il candidato democratico, ma prende valangate di voti in più rispetto al candidato repubblicano, un certo Theodore Roosevelt, che diventerà di lì a breve uno dei più importanti e famosi presidenti della storia americana. Le idee di George gli sopravvivono dopo la morte, che arriva improvvisa nel 1897, un po' grazie al figlio Henry George Jr., che diventa deputato al Congresso, ma soprattutto in realtà grazie a migliaia di seguaci che qua e là negli Stati Uniti fondano delle comunità che si basano sulle idee di Henry George, per far vedere a tutti che si può vivere in quel modo. La più famosa di queste sorge alla foce del fiume Delaware, il fiume che bagna Filadelfia. Filadelfia, se non si è capito, ecco, è una città abbastanza importante per la storia che stiamo raccontando, perché accade tutto più o meno lì. Lì, in un terreno, nel 1900, in un terreno di 65 ettari, pieno di boschi, di laghi, di verde incantevole, l'architetto William Price e lo scultore Frank Stephens fondano il villaggio di Arden e lo strutturano secondo una società progressista che si basa sulle idee di Henry George. La terra viene divisa in lotti, ogni cittadino ne ha uno e paga un affitto per 99 anni, un affitto che non deve mai alzarsi, anche se il cittadino fa delle migliorie sul terreno, come per esempio costruirsi una casa. Tutte le decisioni, tutte, dal dove costruiamo una strada a che libri compriamo per la biblioteca comunale l'anno prossimo, vengono prese da un'assemblea a cui partecipano tutti, tutti, comprese le donne, per esempio, che non hanno diritto di voto, ma anche i bambini. Tutti. Certo, i soldi per comprare il terreno e per costruire la prima casa li mette un mecenate, l'industriale del sapone Joseph Fels, che tra l'altro foraggia altre comunità simili negli Stati Uniti e anche in Europa. Però tutto il resto è organizzato da Stephens e da Price, che chiamano i loro amici. E questi vanno, arrivano entusiasti, per una vita al contatto con la natura, una vita fatta di lavoro artistico, di creazione di piccoli manufatti, di capi di maglieria, di teatro, di libertà un po' anarchica, di nudismo, e dicono i detrattori di libero amore. La vita comunitaria, peraltro, non è semplicissima. Per esempio, è molto facile andare in nudi dei boschi d'estate piuttosto che d'inverno, per esempio. La sussistenza è difficile da garantire, infatti il buon Joseph Fels ogni tanto deve mettere mano al portafoglio. E gioco forza, vabbè, la comunità resta piccola. Non riesce a incidere tanto in un dibattito nazionale in cui invece ci si sta chiedendo se non sia il caso di un ritorno alla natura rispetto a un'industrializzazione sempre più selvaggia, sempre più massificante. Però Arden diventa un posto figo. Un coacervo di pittori, scultori, intellettuali, autori, sfaccendati anche, che passano il loro tempo andando a cavallo in mezzo ai boschi, bevendo alle fontanelle dei villaggi, partecipando a gare, qualsiasi, a cui tra l'altro partecipano anche le donne che normalmente non potrebbero partecipare negli Stati Uniti, a gare, che ne so, di equitazione, gare di atletica, o anche a giochi da tavolo come gli scacchi, o come un gioco che viene portato a Arden da una fervente seguace delle teorie di Henry George, una 37enne dattilografa di Washington che si chiama Lizzie Maggie. Arriva a Arden nel 1904 per seguire semplicemente una conferenza di Stephens, ne rimane ammaliata, resta lì qualche settimana e incomincia a parlare con i cittadini di Arden di un gioco che lei ha inventato, che si chiama The Landlord's Game, ha brevettato qualche mese prima, che è un gioco che attraverso il passatempo vuole far vedere quanto sono belle, quanto sono giuste le teorie di Henry George. Insomma, un gioco valido per i bambini, ma anche per gli adulti. Fra fra gli intellettualoidi di Aden il gioco spopola. Vanno fuori di testa, giocano come dei pazzi, di continuo. E infatti lei, quando va via, e lascia due tabelloni, tanto sono fatti a mano, quindi. Addirittura un scultore locale ne incide uno nel legno. Lei va via, e gli intellettualoidi di Aden continuano a giocare a questo gioco, di continuo. Cambiando le regole anche un po', no? Via via. Tanto che nel corso degli anni si dimenticano pure il nome. Ad Aden, The Landlord's Game, nel corso degli anni, viene chiamato gioco dei monopoli. Una tela cerata, quadrata, da mettere al centro della tavola. Banconote finte, da dare ai vari giocatori, che sono al massimo 5, ognuna interpretato da un segnalino di legno. Ai lati della tela ci sono, per ogni lato, 9 caselle. Quasi tutte sono proprietà, del valore fra i 10 e i 220 dollari. Al centro di ogni lato c'è una proprietà particolare, si chiama Railroad, stazione ferroviaria, vale 5 dollari. Qua e là ci sono alcune caselle particolari, tipo Absolute Necessity, bisogna dare il pane ai bisognosi, 5 dollari. Franchise, servizi essenziali come l'elettricità, l'acqua potabile, 5 dollari. Luxury, tassa straordinaria sul lusso, 50 dollari, che però ti dà un cartoncino che alla fine del gioco ne vale 60. Negli angoli altre caselle strane. La Poor House, l'ospizio per i poveri, dove vanno i giocatori che hanno finito i soldi, da cui possono uscire chiedendo i soldi alla banca centrale del gioco, che poi dopo vanno restituiti alla fine. Poi la temutissima casella Go to Jail, vai in prigione, che è dall'altra parte, da cui si esce solamente facendo un turno doppio con i dadi, o se no spendendo 50 dollari. E poi la casella iniziale del gioco, dove c'è disegnato un globo, una terra, con sopra un'epigrafe di Henry George. Il lavoro sulla madre terra produce salario. Quando si passa di lì, si prende 100 dollari. Per una retribuzione, è il tuo compenso. Si fanno 5 giri di tavolo. 5 giri. Tirando 2 dadi a 6 facce. E poi ci si comporta a seconda di quello che accade. Vado in un posto, pagherò la tassa, prendo 100 dollari, che ne so, vivo, lavoro, faccio cose e vedo gente. All'inizio del gioco vengono dati 500 dollari a ogni giocatore e anche alcune delle, a caso, alcune delle proprietà che possono essere acquistate oppure, se non acquistate, rimesse lì, tranquille, al centro del tavolo. Quando capito su una casella, su una proprietà che è di proprietà di un giocatore, pago un affitto. Ma a chi lo pago? Dipende. Qui ci sono 2 set di regole. Il primo set, che potremmo definire oggi pro monopolio, dice che devo pagare l'affitto al proprietario del luogo. E alla fine vince chi ha più soldi. Il secondo set di regole, che oggi chiameremo pro cooperazione, l'affitto invece non lo pago nessuno, lo prendo e lo metto al centro del tabellone. E quando il gruzzoletto arriva a essere di 50 dollari, viene suddiviso fra i 5 giocatori in parti uguali. E alla fine vince chi, dopo 5 turni, riesce a raddoppiare la somma iniziale. Questo più o meno è quello che c'è scritto nella domanda di brevetto di un gioco che si chiama The Landlord's Game, il gioco del proprietario terriero, che viene depositato da Lizzie McGee all'ufficio brevetti di Washington nel marzo del 1903. Se si gioca pro monopolio, suona abbastanza familiare. Lizzie riesce ad avere il brevetto parecchi mesi dopo, nel gennaio del 1904, ma quando esce dall'ufficio brevetti è contenta come una Pasqua, è una delle poche donne americane a ottenere un brevetto. E non è neanche il primo, no, è il secondo. Perché 10 anni prima, a soli 26 anni, Lizzie ha ottenuto il brevetto per un aggeggio che è in grado di far passare meglio i fogli all'interno delle ruote della macchina da scrivere. Che è una nuova diavoleria che è appena arrivata sul mercato, di cui tra l'altro molti hanno paura. Molti, ma non Lizzie. E di indole è molto aperta, molto curiosa. Vive a Washington, frequenta i circoli intellettuali, va sui palchi dei teatrini off, scrive racconti, scrive poesie. È figlia di un giornalista, amico personale di Abramo Lincoln, che gli ha inculcato, il padre, non Abramo Lincoln, le ha inculcato i valori dell'antischiavismo, dell'uguaglianza sociale, dell'apertura, dell'inclusione. Lizzie diventa donna in un periodo di grandi cambiamenti, soprattutto tecnologici, grattacieli, pneumatici, telegrafo, le ferrovie, e un turbine di soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi che vanno però a vantaggio di pochi, mentre i tanti che producono i beni venduti di quei vantaggi non vedono che le briciole. Che fine hanno fatto i valori per cui ci siamo scannati durante la guerra civile? Perché pochi vivono nel lusso più sfrenato, in ville enormi, gigantesche, andando in giro su automobili pazzesche con vestiti di marca, mentre tanti, troppi, poveracci, vivono in tuguri malsani, vestiti di stracci e non hanno neanche il cibo per mangiare. Queste cose vengono pensate e dette ogni giorno nel giornale dove lavora il padre di Lizzie, finché Lizzie legge Progresso e Povertà e ne rimane letteralmente soggiogata. La sua famiglia ha dei rovesci economici e quindi sono costretti a trasferirsi a Washington, dove Lizzie deve lasciare gli studi. E si impiega come dattilografa all'ufficio Lettere Smarrite della capitale. Però quando finisce il lavoro, frequenta i circoli femministi, circoli fortemente politicizzati, diventa amica personale del figlio di Henry George, si batte per la dignità del lavoro femminile e per la single tax contro la tassa sui redditi. Ma Henry George è morto, i dibattiti sulla single tax cominciano a essere un po' meno affollati, il progresso incomincia a piacere agli americani. Oh, certo, può portare un sacco di povertà, ma può farti diventare ricco. Ma per la miseria. Ma noi siamo gli Stati Uniti. Noi siamo una nazione che 100 anni fa neanche esisteva. E adesso andiamo in giro a insegnare al mondo come fare le ferrovie e le metropolitane. Qui chiunque può diventare qualcuno. Chiunque. Certo, se nasci ricco è più facile. Sì. Ma anche se nasci povero, basta avere un'idea, basta avere tenacia, basta avere voglia di fare. Basta farglielo vedere e tu puoi diventare qualcuno, puoi essere felice. E c'è scritto nella Costituzione americana che ogni cittadino americano ha diritto di cercare la propria felicità. Beh, Lizzie è profondamente americana e la propria felicità la vuole cercare anche lei. E non solo lottando per i valori in cui crede, ma per esempio anche incarnandola in un qualcosa di fisico, in un oggetto. Un bel gioco da tavolo. I giochi da tavola all'inizio del Novecento incominciano a entrare nelle case borghesi dove la sera si ha tempo da passare. Non sono solamente un passatempo, No, sono anche degli strumenti di comunicazione. E allora Lizzie vuole far passare il diavolo della single tax nella tranquillità capitalistica di un tavolo piccolo borghese. Vuole far diventare il mondo un posto migliore, instillando nei bambini le idee di Henry George, dimostrando loro che il mondo in cui vivono è sbagliato attraverso un gioco che, se giocato secondo le regole della realtà attuale, impedisce a chi non ha soldi di giocare e divertirsi. Mentre invece, se giocato secondo le regole della cooperazione, dà la possibilità di una vita dignitosa a tutti quanti. Landlord's Game è il risultato. Lo brevetta nel 1904, ci lavora per 2 anni, nel 1906 crea una sua piccola azienda, la Economic Game Company, per cercare di commercializzarlo con un tabellone che è leggermente diverso, addirittura più georgista. Ci sono dentro altre caselle che, secondo Henry George, non possono essere oggetto di monopolio, come le miniere, i campi coltivati. Però le cose non funzionano. Alcune famiglie del nord-est sì, lo giocano, ma non ha il successo che sperava. E allora Lizzie nel 1909 si rivolge a chi? Alla Parker Brothers, che lo rifiuta, perché lo giudica troppo complicato. Un po' sconfortata, nel 1910 Lizzie poi si sposa, ha già 40 anni, è molto innamorata del futuro marito, ma in realtà si sposa più che altro per mettere a tacere le dicerie sulla sua sessualità, che albergano anche negli ambienti pseudo-progressisti e intellettuali che frequenta normalmente. Non smette di immaginare nuovi giochi, anche se le vendite di Landlord's Game non funzionano proprio. Nel 1924 fa un nuovo brevetto che è scaduto 3 anni prima, per cui chiede un nuovo brevetto con un cartellone leggermente diverso, perché inserisce dentro anche i nomi dei lotti per la prima volta, prendendoli dallo stradario di New York e di Chicago. Non smette di propugnare le idee di Henry George, anche se la presa del potere da parte di Lenin nel 1917 le hanno rese un po' troppo pericolosamente simili a quelle bolscevichiche. E nonostante il fatto che Marx stesso però abbia detto che Henry George in realtà è un pazzo capitalista, è un pericoloso retrogrado, non smette di pensare, Lisi, che l'accumulo di ricchezza in poche mani è una iattura, soprattutto dopo la Grande Depressione del 1929. Nel 1931 la chiamano al Congresso a fare una conferenza su Henry George e lei lì, di fronte ai deputati, legge dei passi di progresso e povertà che, nonostante abbia 50 anni, è di drammaticissima attualità. E dopo aver letto il libro di George, racconta ai deputati le regole del suo landlord game. Forse crede ancora in una possibilità di rivalsa. Forse pensa ancora di poter essere felice, di poter godere dei frutti del suo gioco. Non sa che qualche anno prima Scott Nearing, un professore di vaghe idee socialiste della Wharton School of Finance della Pennsylvania, che è passato da Arden e ha conosciuto il gioco dei monopoli, si è portato in università un tabellone e incomincia a giocare con amici, colleghi. E piace tantissimo a tutti quanti e se lo portano in giro di college in college. Non sa che nel 1929 Ruth Hoskins porta ad Atlantic City un tabellone di questo gioco e lo fa giocare alla comunità di quaccheri della città balneare, che vanno letteralmente fuori di testa, ma veramente fuori di testa. Giocano tutte le sere, tutti i giorni, tutte le sere. Peraltro cambiano le regole, che tanto non sono scritte, per cui se ne inventano. Regole sempre nuove, inseriscono delle cose che non c'erano, tipo le case di alberghi, li mettono i quaccheri. Gli imprevisti, le probabilità, li mettono i quaccheri. E mettono anche i nomi dei lotti presi dalle loro vie. E il gioco ormai sta entrando sempre più in una direzione pro-monopolio. Perché forse alle persone piace di più quella parte di gioco che devono distruggere gli altri. Bah. I quaccheri di Atlantic City, membri dello staff di Fiorello LaGuardia, sindaco di New York, consiglieri di Franklin Delano Roosevelt alle prese con New Deal, docenti della Columbia University, autorevoli membri della commissione antitrust, tutti tra il 1910 e il 1931 giocano a una specie di landlord's game modificato che non ha regole scritte, viene giocato su tabelloni dipinti a mano e nessuno sa chi diavolo lo abbia inventato. Febbraio 1935. Siamo davanti a una casa di Arlington, in Virginia. C'è un 70enne uomo d'affari dall'aria abbastanza severa, incanutito dagli anni e anche dalle disgrazie familiari, perché nel corso degli anni ha perso gli unici 2 figli maschi, uno per malattia, l'altro per un incidente aereo. Dentro una coppia di anziani, lui 83 anni, pensionato, lei 69 anni, dattilografa all'ufficio scuola del comune, ma all'occorrenza scrittrice di articoli su alcune riviste di stampo radicale, se non socialista. I due sono Albert Phillips e Lizzie McGee. E alla porta, che sta bussando, c'è niente po' di meno che Mr. George Parker, presidente emerito della Parker Brothers. Da quando è arrivato il telegramma che annuncia la visita del magnate, Lizzie non sta più nella pelle. Cosa diavolo vorrà da lei il presidente emerito di una delle aziende statunitensi più importanti in assoluto? Forse la Parker Brothers sta riconsiderando il rifiuto del suo landlord's game di qualche anno prima. Ma certo, Albert, ma è così. Perché adesso le cose sono cambiate, c'è la crisi, c'è spazio per le idee di Henry George. Possono germogliare, possono crescere come alberi nelle terre verdi. Sì, vedrai, la Parker Brothers ci ha ripensato. Albert, che conosce la moglie, non se la sogna neanche un momento di contraddirla. Per cui dice, certo, amore, ma assolutamente sarà sicuramente così. invece ha ragione lei. Oh. Seduto su una poltrona un po' sghemba di un semplice tinello di una casa di provincia americana, circondato da una incredibile infinità di giornali e di libri che non degna neanche di uno sguardo, anzi piuttosto schifato per la semplicità del luogo, per l'oscurità del salottino e anche per il caffè, che tra l'altro gli dà l'easy in persona senza neanche che ci sia personale di servizio che gli porta lo zucchero. George Parker racconta agli attoniti coniugi Phillips di essersi imbattuto qualche settimana prima per caso in una scatola di The Landlord's Game. Non è sicuro di aver capito bene il messaggio politico che sta alla base del gioco e quel poco che ha capito non gli piace granché. Ma ritiene che abbia delle potenzialità. E allora ha fatto delle ricerche e ha saputo che Landlord's Game ha un brevetto. Un brevetto che è di proprietà di Lizzie McGee. Ed eccomi qui. È venuto lì per comprare il brevetto e per commercializzare il gioco, naturalmente mettendo su ogni scatola il nome di chi l'ha inventato. Per Lizzie ci sono pronte $500 pronta cassa e anche la possibilità di avere una corsia preferenziale per proporre dei nuovi giochi alla Parker Brothers. D'accordo? D'accordo. Caspita, d'accordo, sì! Lizzie, quando George Parker sta parlando del progetto, quasi gli rovescia il caffè sui pantaloni. Albert rimane allibito, non può credere a quello che sente. Però sembra tutto vero, c'è un contratto, il contratto viene firmato seduta stante. E quando George Parker se ne va, chiudendo la porta, Lizzie abbraccia il marito, pazza di felicità. Oddio Albert, oddio mi viene un infarto, oddio. Oddio, ma hai sentito? Ha detto che il Landlord's Game ha delle grandissime potenzialità. Ha detto potenzialità, non grandissime, cioè solo quello. Stiamo con i piedi per terra, Lizzie. Ma tu hai capito chi è appena uscito da quella porta? No, non ho capito, ma l'hai capito chi era quello? Quello è il re, ma che dico il re? Quello è l'imperatore dei giochi. Se un gioco ha il suo imprimato, quel gioco vende. E il mio Landlord's Game avrà il suo marchio. Già me l'ho finito. Quel Landlord's Game, ideato da Lizzie McGee Phillips, edito da Parker Brothers. Le scatole nei negozi. Vendite di Natale alle stelle. Le idee di Henry George che entrano in tutte le case americane. E io e te, Albert, caspita, almeno abbiamo una vecchiaia dignitosa. Due soldi da parte. È talmente fuori di testa, Lizzie, che due giorni dopo scrive un messaggio sognante a George Parker dicendo addio a Landlord's Game, dicendo che affidandolo nelle mani di chi saprà fargli raggiungere la sua missione e il suo scopo. Il nuovo proprietario che certamente non dimenticherà le promesse che lei le ha trasmesso. E conclude scrivendo addio, mia creatura diletta, e fai buon viaggio. Albert, comunque, nonostante il contratto sia firmato, non ci crede ancora, eh? No, ma non può esistere. Ma però, caspita, è costretto a ricredersi quando vede arrivare a casa le scatole del gioco per l'approvazione definitiva. Oh, c'è scritto. Landlord's Game, ideato da Lizzie McGee Phillips, Parker Brothers. E porca miseria. Ma allora è tutto vero. Ma allora è tutto vero. Non proprio. Perché qualche mese prima Charles Darrow ha firmato un accordo con Robert Barton. Robert Barton è il genero di George Parker e da poco è diventato direttore generale della Parker Brothers, un'azienda che negli ultimi 4 anni perde centinaia di migliaia di dollari all'anno. Nell'accordo c'è scritto che Charles Darrow cede alla Parker Brothers la possibilità di produrre e commercializzare un gioco di sua invenzione chiamato Monopoly. E per questo riceverà dalla Parker Brothers $7,000. 7.000, non i 500 di Lizzie, 7.000, oltre una percentuale sulle vendite di ogni scatola. A Darrow della percentuale non gliene frega niente, con quei $7,000 finalmente può curare il figlio e se investe bene quello che rimane può garantirsi una vecchiaia tranquilla con la moglie. Il suocero Parker, George Parker, che nonostante sia presidente emerito, quindi non abbia nessuna carica gestionale, non smette di mettere becco nelle gestioni quotidiane della sua ex azienda, ormai, che ha il suo nome, e che ritiene che il genero Barton sia un emerito deficiente, Appena viene a sapere dell'accordo, va su tutte le furie. Ma scusa, $7,000. No, $7,000. Perdiamo migliaia di dollari ogni anno e sto deficiente va a dare $7,000. Ma per che cosa poi? Per che cosa? Per un gioco sul business? Ma i giochi sul business non funzionano. Sono noiosi, complicati, alla gente non interessano. No, no, fatemi leggere l'accordo, che qua devo trovare una clausola che lo invalida, perché non è possibile, dai. Ma poi devo farmi dare quei $7,000 da quel cretino di un Darlow. Per fortuna, nessuno gli dà retta alla Parker. E George Parker è costretto ad assistere allibito alle vendite stratosferiche di quel gioco che secondo lui non doveva funzionare. 278.000 scatole il primo anno. 1.751.000 scatole il secondo anno. E così via. Fanno $2 a scatola, $3 edizione deluxe. Fate un po' voi i calcoli. Robert Barton non è quel deficiente che il suocero pensa. Dopo aver firmato l'accordo con Darrow, gli chiede di scrivere un resoconto preciso, scritto, dettagliato di come ha inventato il gioco. È per il marketing, non che mi interessi a me. Non è mica vero. Vuole per esempio evitare gli incresciosi avvenimenti in cui è occorso il suocero George Parker 30 anni prima, che dall'alto della sua arroganza pretendeva di poter commercializzare in esclusiva il gioco delle pulci e il ping pong, salvo poi doversi ricredere quando erano diventati subito di pubblico dominio. E Charles Darrow gli risponde con una lettera delirante in cui si rivendica la paternità del gioco, l'ha inventato lui 4 anni prima in una situazione di difficoltà personale, e poi ha giocato con degli amici. Ma i dirigenti della Parker non ci cascano. Conoscono perfettamente il mercato dei giochi, molto più di quanto lo possa conoscere Darrow, ovviamente. E fanno presente a Barton che in realtà da una 30 d'anni c'è in circolazione un gioco abbastanza simile, che loro conoscono. Ma soprattutto c'è in circolazione, attualmente, in quel momento, Finance, che ha delle regole abbastanza simili a quelle del Monopoly. E non potrebbe essere altrimenti, perché Finance è stato inventato da Daniel Lehman, sulla base di quel gioco dei monopoli che giocava al William College, e Daniel Lehman è un po' il capostipite di quella fiera dell'Est che arriva fino a Darrow. Allora, la Parker compra i diritti di Finance e lo fa sparire. Poi riesce a far sparire Easy Money e Inflation, che sono due giochi che vengono fuori subito dopo i primi successi del Monopoly. Poi rastrella tutti i tabelloni che sono ancora presenti al William College, con la scusa di metterli nel museo aziendale. Poi Barton fa finta di credere a Darrow, chiede il brevetto per Monopoly e manda il suocero a prostituirsi da Lizzie McGee per ottenere il brevetto del 1924. Allora, l'ufficio brevetti cosa dovrebbe fare? Dovrebbe fare un'istruttoria per vedere se esistono in commercio, o comunque esistono brevettati, dei beni, dei servizi che sono simili, se non uguali, a quel bene che per cui è chiesta la licenza. Un'istruttoria lunga, quindi, ma che soprattutto prima o poi si sconterà con l'Endless Game nel 1924. Oh, per la Parker Brothers non c'è problema, eh? Non ci perde soldi, l'ha acquistato quel brevetto. Ma non può andare in giro a dire che l'inventore del Monopoly è Charles Darrow, l'eroico disoccupato che ha inventato un gioco nel garage di casa in un momento di difficoltà ed è diventato milionario. Come recita la lacrimevole storiella che si è inventato il reparto marketing quasi subito, che sembra che sia alla base del successo del gioco e del passaparola positivo, perché gli americani sono gente semplice, sono gente così, sono gente che pensa, ma se ce l'ha fatto lui, ce la faccio anch'io. Barton suda freddo. Non ha nessuna intenzione di avere ancora a che fare con quella pazza socialista rompicoglioni. Ha un'idea forte per le mani, una bella storia, e vuole vendere quella. Alla gente non gliene frega niente dell'uguaglianza sociale, del femminismo, dei diritti delle minoranze. E comunque lui non saprebbe che storia scriverci. Quei $500 devono essere il colpo di spugna che cancella Lizzie McGee dalla storia. Per sempre. L'indagine dell'ufficio brevetti è insolitamente breve. Dopo pochi mesi c'è il responso. E incredibilmente è favorevole alla Parker Brothers. Non si capisce come sia possibile, perché Monopoly è Landlord's Game con qualche cosa in più, ma qualche cosina proprio. Eppure la Parker Brothers, tac, mette l'imprimatur a quel gioco e a quel brevetto. Ah, Barton tira un sospiro di sollievo. Nessuno può rompergli più le scatole, nessuno può mettersi in mezzo tra lui e il Monopoly, nessuno. Non Daniel Lehman, che appena viene a sapere che Charles Darrow è l'inventore del Monopoly, scrive una lettera al Time, che viene pubblicata nel 1936, ma non se la fila nessuno. Non Charles Todd, che è quello che l'ha insegnato il gioco a Darrow, viene in possesso di un volantino in cui c'è scritto Charles Darrow, inventore dei Monopoli, dice, ma questo è pazzo. Scrive indignato alla Parker Brothers, questi non gli rispondono, infuriato distrugge tutti i vecchi tabelloni che ha in cantina. Non Eugene Rayford, che è quello che ha insegnato il gioco a Charles Todd, che ci mette un po', ma nel 1964 vede Charles Darrow in televisione che si spaccia come l'inventore del Monopoly. E fa, ma no, prova a telefonare alla TV via cavo, ma nessuno gli risponde. E soprattutto non Lizzie McGee, la povera Lizzie McGee, che quando vede uscire il Monopoly, e vede Charles Darrow, sua bella faccia occhialuta e rubizza e rubiconda, che si spaccia come suo inventore, legge le regole dei Monopoli. Ma non è possibile. Ma questo è il mio Landlord's Game. È solo che Landlord's Game effettivamente esce sul mercato, ma non viene minimamente pubblicizzato dalla Parker Brothers e quindi non vende un tubo. Mentre Monopoly entra in tutte le case degli americani. Solo che nessuno si rende conto che in teoria dovrebbe essere una critica e non un avallo del monopolio. Lizzie capisce di essere stata fregata. Scrive una lettera al Washington Post, all'Evening Star, che vengono pubblicate ma rimangono lettera morta. Nel 1937 il marito Albert muore. Lizzie resta sola. Sogni infranti. Non smette di propugnare le idee di Henry George, per carità, e diventa poi anche direttrice della Henry George Social School of Science, ma ormai è fuori tempo massimo. La Parker Brothers può macinare valangate di soldi, di dollari, di utili. Charles Darrow diventa milionario e probabilmente col passare degli anni pensa di aver solo inventato davvero lui il Monopoly. E soprattutto Robert Barton ha vinto senza neanche spargimento di sangue. Nessuno saprà mai la vera storia del Monopoly. Nessuno. Com'è che invece noi la sappiamo? Cioè, quello che vi ho detto sono mica balle, è tutto vero. Come facciamo a saperla? Grazie a un bambino. È una sua domanda esistenziale. E per questo dobbiamo fare un salto. Dobbiamo trasferirci di qualche anno più avanti. Una mattina qualsiasi del febbraio del 1973. Il 45enne Ralph Ansbach, professore di economia politica all'Università di Berkeley, sta facendo colazione con la sua famiglia, la moglie Ruth e i figli Mark, 12 anni, e William, 7 anni. Sta leggendo ad alta voce il San Francisco Chronicle, commentando le notizie, tutta la famiglia è lì, in religioso silenzio, ad ascoltare il professorone che dice la sua. Tutti zitti, guai a contraddirlo, guai a fermarlo. Ma non è possibile. Ma non è possibile che ci sia ancora qualcuno che pensa che il monopolio sia una cosa giusta. Che si possa accumulare ricchezza così, in maniera sfrontata, fregandosi di chi sta male. Ah, figli miei, una volta non era così. All'inizio del secolo hanno creato l'antitrust apposta per impedire a tipacci come Carnegie e Rockefeller di accumulare troppi soldi e di mandare in malora i piccoli imprenditori. E quindi piccolo William osa interromperlo. Ma quindi, papà, io che ieri sera ho vinto a Monopoli, sono cattivo? No, perché ci siamo divertiti. Tantissimo, anche tu ridevi. Ma com'è possibile che una cosa tanto divertente sia anche così cattiva? Boom. Allora, se Ralph Ansbach fosse un rincuorerebbe il figlioletto che ha i turbini esistenziali e se ne andrebbe tranquillamente a lavorare. Buonanotte. Ma il problema è che Franz Ansbach non è un sempliciotto. Anzi, è uno degli elementi più brillanti di Berkeley, l'università culla della contestazione studentesca. I suoi corsi sono pieni di gente. Si respira aria nuova, messa alla berlina di idee stantie, nuovi modi di imparare. Sta tenendo un corso monografico su Adam Smith. Lui, Ansbach. Adam Smith è quello della mano invisibile del mercato che mette a posto tutto, dell'altruismo anche nella concorrenza più spietata, e soprattutto che è contro il monopolio perché lo ritiene antinatura. E quando osserva i suoi studenti, viene da pensare come è possibile che un concetto così negativo come il monopolio sia associato in realtà da tutti a allegre serate in compagnia. Come fa un gioco a distorcere così tanto la realtà? Ci sarebbe bisogno di un gioco altrettanto forte, altrettanto noto, che dica esattamente il contrario, che parli del capitalismo competitivo, per esempio, della concorrenza, del fatto che poi alla lunga la concorrenza fa abbassare i prezzi e fa stare bene tutti quanti. Fa il suo giro nei vari negozi e scopre che quel gioco non c'è. E allora decide di crearselo da solo. Torna a casa e crea un tabellone simile a quello del Monopoli, dove i lotti però non sono dei monopoli da costruire, ma dei monopoli da distruggere in ogni settore. Non c'è la prigione sostituita dal tribunale, non ci sono imprevisti e probabilità sostituiti dalle mailbox, che sono comunicazioni del Dipartimento di Giustizia. Distruggendo monopoli e facendo altre buone azioni, ogni concorrente, ogni giocatore ottiene punti. Alla fine vince chi ha più punti. I giocatori non sono concorrenti, ma sono tutti garanti antitrust. Trust Buster, in inglese. Infatti lui pensa di chiamare il gioco Bust the Trust. Ma quando si rende conto che la maggior parte dei suoi studenti non sa neanche che cosa sia l'antitrust, mentre tutti conoscono il monopolio, lo chiama antimonopoli. Semplice, chiaro, conciso. Facile. Oh, l'antimonopoli incomincia a commercializzarlo alla fine del 73 e ha un successo inatteso. Le prime 2000 scatole vanno via in un lampo, a $8.75 l'una. Tanto che puntuale, a febbraio del 1974, arriva a casa Ansbach una bella lettera dei legali della Parker Brothers. Abbiamo saputo che lei commercializza un gioco che si chiama Antimonopoli. Non può farlo, perché il nome Monopoli appartiene a noi. Cambi il nome del gioco e non succederà nulla. Altrimenti saranno guai. Madonna. Una lettera minatoria. La moglie di Ralph si mette paura e gli dice, cambia il nome del gioco. E lui non ci pensa nemmeno. Ma perché, porca miseria? Ma Monopoli serve semplicemente a far capire di che cosa tratta il gioco. Il loro tratta del monopolio e il mio è l'antimonopolio. Dai, andiamo. E quindi non cambia il nome. Puntualmente la Parker Brothers fa causa ad Ralph Ansbach, il quale non sa bene cosa fare, perché si tratta con un colosso che gli manda addosso stuoli di avvocati incompleti, scuri di marca, che lavorano e vivono giorno e notte in uffici con polponi di pelle, in grattacieli di vetro luminosi. Oddio. Finché il figlio Mark, quello più grande, gli fa leggere un libro che sta leggendo in quei giorni. Si intitola A Toy is Born. È un libro di Marvin Kaye, che in futuro diventerà abbastanza noto come scrittore di fantascienza e direttore di riviste che parlano di Lovecraft e Sherlock Holmes, ma che è all'esordio in quegli anni, con un libricino, che parla della storia dei giochi da tavolo e quindi anche del Monopoly. L'aveva comprato Ralph Ansbach qualche mese prima per farsi una cultura sul settore dei giochi, non è che nel 70 prima, però l'ha letto distrattamente e l'ha lasciato lì sulla scrivania. Il figlio, che è un lettore voracissimo, l'ha preso, ha incominciato a leggerlo e gli fa leggere quello che c'è scritto nel terzo capitolo. E Ralph sbianca. L'invenzione del Monopoly è attribuita normalmente a Charles Darrow, ma alcuni esperti vanno più indietro nel tempo e parlano di The Landlord's Game nel 1904 di Lizzie McGee. Cazzo è Lizzie McGee? Ma sta a vedere che Come abbia fatto Marvin Kaye a essere così preciso è ignoto. Forse ha avuto qualche soffiata da qualche ex dipendente della Parker Brothers. O forse molto ha influito il fatto che anche lui, guarda caso, è di Filadelfia, dove Charles Darrow ha continuato a vivere fino al 1967, l'anno in cui è morto. Fatto sta che comunque Ralph comincia a indagare e nel giro di un paio d'anni scopre tutta la storia. Chiunque sarebbe andato da Marvin Kaye e gli avrebbe chiesto le sue fonti, ma Ralph no. Gira tutti gli Stati Uniti per andare a beccare i vecchi giocatori uno per uno, perché ha bisogno di portarli in tribunale. Uno per uno. Beh, molti sono morti, sono passati degli anni, ma altri no. Non Daniel Lehman. Non Charles Todd, cazzo, sono 30 anni che voglio dire la mia, forza, fatemela dire! Non alcuni quaccheri di Atlantic City, che ce l'hanno soltanto, sono abbastanza incavolati perché non è mai stata riconosciuta l'importanza di Atlantic City e della loro comunità nell'evoluzione del gioco. Ralph si prende bene. E nonostante spenda una fortuna in parcelle legali e in viaggi in tutto il paese, e la moglie Ruth, tra l'altro, incomincia ad avere i sintomi di una malattia che poi verrà diagnosticata come sclerosi multipla, continua a indagare. E scopre quindi anche l'articolo di Lizzie sull'Evening Star, quello che nessuno aveva mai letto, fondamentalmente. E vede il suo bel volto giovanile, la mascella volitiva, incorniciata da lunghi boccoli grigi, in una foto in cui Lizzie ha in mano, da una parte, una scatola del Monopoly, dall'altra, una scatola di Landlord's Game, entrambi editi da Parker Brothers. Parker Brothers che incomincia a capire che guai potrebbero arrivare, per cui fa a Ralph un'offerta pazzesca, $500,000 e un posto da dirigente purché lasci perdere per sempre l'antimonopoli. Bello. Bello. Però da dirigente io non potrò mai dire che Parker Brothers si è rubata i monopoli. Non posso farlo, lo devo a Lehman, lo devo a Todd, lo devo alla memoria di Lizzie, lo devo anche un po' a me, pensa Ralph, e a mia moglie che si è presa la sclerosi multipla per questa roba. E quindi decide di andare in giudizio con la Parker Brothers. E perde. No. Infuriato, però, Ralph Hanspach va in appello. E perde ancora. Ma il diavolo fa le pentole e non i coperchi. Il giudice dell'appello c'ha un'interpretazione sbagliata della sentenza, l'appello deve essere rifatto, la seconda corte d'appello del 1982 ribalta la sentenza completamente. E scrive che Charles Darrow non è l'inventore del Monopoly. Il Monopoly non ha copyright perché ormai riguarda il prodotto e non il produttore, è diventato come cellophane, scotch, aspirina. E quindi chi vuole creare un gioco che si chiama anti-Monopoly lo può fare senza chiedere il permesso a quelli che fanno il Monopoly. Oh. Apriti cielo, la Parker Brothers va fuori di testa, addirittura fa l'appello alla Corte Suprema, ma questo manco lo prende in considerazione. Andiamo. Monopoli è un nome comune, su, è di pubblico dominio, ma non rompeteci le scatole che abbiamo cose più importanti, dai. E quindi anche la storia vera del Monopoli diventa di pubblico dominio. Ed eccoci qui. Ma tutto questo ha forse cambiato qualcosa? Se noi mettiamo il tabellone del 1924, quello del secondo brevetto di Lizzie, a fianco a quello del 1904, alcune differenze si notano. L'abbiamo detto, in quello del 1924 i lotti hanno un nome, preso dalle vie di New York e di Chicago. Ci sono i colori, il giallo, il viola, il verde. Non sono ancora in terzine, come oggi, però è solo un primo passo. E la posizione di alcune caselle è cambiata. Ma c'è una cosa che non cambia. Nella casella iniziale c'è sempre scritta la solita frase di Henry George: il lavoro sulla madre terra produce salario. Cioè, insomma, gira pure per le proprietà, fai quello che devi fare, migliorale, lavoraci su. Se passi di qua, significa che hai lavorato e quindi hai diritto a una retribuzione. È il tuo compenso. È quello che sta sotto all'idea stessa del gioco se si gioca secondo le idee di Henry George. Cioè, acquista pure parti di un bene comune come la terra, ci mancherebbe, pagherai una tassa solamente per il privilegio di averlo, ma i soldi che vengono raccolti vanno a vantaggio di tutti i lavoratori, compreso te. Nel tabellone che Darrow ha copiato dai quaccheri, fondamentalmente, ogni riferimento alla madre terra è assente. La casella iniziale c'è scritto go, via. Come una gara, no? Sono tutti lì, uno a fianco all'altro, appaiati, Tutti hanno le stesse possibilità, secondo l'idea di uguaglianza economica del capitalismo americano delle origini, no? Mica il migliore, un commovente spirito olimpico, che però non impedisce colpi bassi, trattative serrate, sputi, calci, pugni, schiaffi, puri alla palla da qualunque. E quando passi dal via, sì, riprendi i soldi, come nel primo caso, ma non è un compenso per avere lavorato, è un'elemosina. È la mancetta del paparino che tu passi e dici, ah, sei ancora vivo? Bravo, meriti un premio. Paff. Oppure, sei messo male, dai, riprova, sarai più fortunato. È così. Ma chi se ne frega della madre terra, pensa Paolo. Chi se ne frega della madre terra? Noi dobbiamo costruire case, alberghi. Noi dobbiamo sfruttare la proprietà privata a più non posso, dobbiamo diventare ricchi. E lo Stato mi deve dare tutte le libertà di cui io posso godere, perché io sono l'imprenditore, io sono il progresso, io sono il futuro! Ha! E che dolore quando tiro su la carta, vai in prigione senza passare dal via. Vai, il mondo andrà avanti senza di me. Mi dimenticheranno. Posso riscuotere le rendite anche da Galeotto, Ma non posso fare affari. Non posso far girare questa ruota immaginaria del mio essere businessman. Tra il 1935 e oggi, a Monopoli in tutto il mondo ci hanno giocato più e più volte 1 miliardo di persone. Questo rende il Monopoli il gioco da tavolo più giocato al mondo. Verrebbe da pensare che la specie umana è intrinsecamente malvagia se il gioco da tavolo più giocato al mondo è un gioco così violento. Nemmeno risico, dato per parlare di distruzione, bellica in questo caso, è così devastante. Perché se ci pensiamo bene, a risico può avere come obiettivo la distruzione di un'armata, di un certo colore, ma non di tutto. Se sei sfigato hai l'obiettivo Asia e Africa o Europa, Sud America è un terzo continente a scelta, ma non devi prendere tutto il mondo. E il fatto che alla fine tu abbia un sacco di carri armati non c'entra niente, perché se ti girano male i dadi puoi perdere, posso confermarlo. A Monopoli no. A Monopoli i dadi possono girarti bene o male, ma non c'è niente da fare, amico mio. Se tu hai le proprietà giuste, i monopoli del giusto colore e impedisci i monopoli degli altri, soprattutto, hai imbroccato la strada per vincere. Distruggi gli altri e se non ce la fai, almeno fai un sacco di soldi. Ecco quello che ci hanno insegnato. Ecco quello che ci ricorderemo per sempre. Perché da adulti ci dimentichiamo quando è nato Leopardi e quando è morto Manzoni, vero? Ma ci ricordiamo perfettamente Parco delle Vittorie, Vicolo Corto e dove stanno sul tabellone. Io non lo so se questo dimostra che la specie umana sia intrinsecamente malvagia. Forse no. Cioè, forse la specie umana è intrinsecamente malvagia, ma non basta il successo del Monopoli per dimostrarlo. Però è vero una cosa. Abbiamo costruito un sistema che si basa sul possesso, che segue le stesse regole del Monopoli. Premia chi ha, non chi fa. Lo premia economicamente, lo premia anche socialmente, perché i ricchi sono invidiati, vezzeggiati, coccolati. Tutti, o quasi tutti, vogliono essere come loro, avere i loro vizi. Ci si sta bene, in questo mondo. Oh, ci stiamo bene, tutti. Come in un bel divano, dove si sprofonda. A volte si scende un po' troppo in basso, si fa una fatica della Madonna riuscire a tornare a posto, ma quando si torna, che goduria! E se si deve alzare un attimo, magari per andare a prendere un bicchiere d'acqua, si fa in fretta perché poi si vuole tornare subito sul divano. Sì. col tempo, quando si vede qualcuno che passa davanti, gli si dice: senti, già che sei in piedi, puoi prendere un bicchiere. Capito? Già che sei in piedi. Cioè, tu che non godi del meraviglioso mondo che io mi sono apparecchiato, aiutami a non uscirne, per favore. Anzi, aiutami a farmi stare ancora meglio con quel bicchiere d'acqua che tu porti a me e mi fai stare nel mio meraviglioso paradiso. Perché chi è già ricco ha dei privilegi tali che può avere molto di più. Già che sei in piedi, portami un bicchiere d'acqua. E compriamo i monopoli ai nostri figli. Li facciamo giocare senza problemi, perché noi siamo adulti, no? E noi sappiamo tutto, noi abbiamo tutto sotto controllo. E non ci rendiamo conto che in quelle allegre serate in compagnia stiamo facendo un'endovenosa indosi da cavallo di egoismo strutturale a dei bambini che quei valori li ricorderanno per sempre. Che pesante. Andiamo, dai, è solo un gioco, no? Dai. È solo un gioco. Forse. Può essere. Però provate a pensare alle volte in cui fanno notare che state prendendo in giro qualcuno un po' troppo a lungo, e noi normalmente di cosa facciamo? Rispondiamo candidi: madonna, è solo una battuta. Eh sì, però voi avete umiliato quella persona davanti a tutti e non sapete cosa comporterà questo vostro gesto. Lizzie McGee ci ha provato a trovare un'altra strada. La donna intelligente qual era non ha negato la possibilità di giocare secondo le regole del monopolio, ma ha dato un'alternativa. E ha chiesto a tutti di rifletterci, di pensarci su. Risultato? È morta nel 1948, sola e completamente sconosciuta. Non ha ottenuto nessun encomio, neanche dopo. Neanche dopo che è stata conosciuta la sua storia. Nemmeno da Ralph Ansbach, che nel 1989 ha omaggiato i quaccheri di Atlantic City, scoprendo una targa in loro nome al Quality Inn di Pacific Avenue, e non si è mai degnato una volta di andare a fare visita alla tomba solitaria di Lizzie ad Arlington in Virginia, dove nulla, nulla sottolinea il fatto che lì giace la vera inventrice dei monopoli. Hasbro, che nel 1991 compra Parker Brothers, e quindi compra anche i diritti sul monopoli, ha leggermente modificato la storiella di Charles Darrow, ammettendo che probabilmente Charles Darrow ha preso ispirazione da qualche gioco preesistente, ma senza mai nominare Lizzie. E poi, per far capire come gira il fumo, Hasbro ha comprato i diritti dell'antimonopoli da Ralph Ansbach. Ma come? Ma Ansbach? Ma quello che tuonava contro i monopoli, contro l'arricchimento, contro le multinazionali, ha venduto l'antimonopoli a Hasbro? Il professor Ansbach è passato dal via e si è preso la sua mancetta. Nel 1940 Lizzie McGee, resasi conto di essere stata fregata dalla Parker Brothers, ha scritto un lungo articolo su un periodico georgista che si chiama Land and Freedom, in cui ci sono scritte queste frasi. A cosa serve tutta la nostra filosofia se non sappiamo metterla in pratica? Sapere una cosa non basta. Parlarne fra noi, scriverne di tanto in tanto, non è sufficiente. Noi dobbiamo entrare nei sacri recinti dove si barricano le persone che dobbiamo convincere. E non bisogna solo parlare con loro. Bisogna anche mostrare loro dove, come e perché le nostre idee hanno avuto realizzazione. Lavorone. Lavorone. Bello, difficile, e a volte non ce la si fa. E allora mi viene in mente la fine di un film. Non so se l'avete visto, Mediterraneo di Salvatores. Chi non l'ha visto, va da casa, e legalmente o meno, tanto che me ne frega, se lo guardi. Ma chi l'ha visto forse se lo ricorda. Nel 1990, tra l'altro, vince l'Oscar a sorpresa, perché deve combattere, tra virgolette, contro Lanterne Rosse di Zhang Zhimou, che è un vero capolavoro, tanto che molti critici cinematografici, anche italiani, storcono il naso, perché dicono, vabbè, insomma, sì, viva l'Italia, però, provare altra roba. E forse hanno ragione. Però per me l'ultima scena, l'Oscar, la vale tutto. Allora, ci sono un gruppo di commilitoni che si ritrova 40 anni dopo sulla isoletta greca che era stata occupata dal loro plotone durante la Seconda Guerra Mondiale. Uno è rimasto lì, l'altro è il tenente che lo va a trovare dopo 40 anni, e il terzo è un sergente che alla fine della guerra smaniava per tornare in Italia perché bisognava fare un casino e cambiare tutto. E il tenente lo vede lì e al limite gli chiede: ma tu cosa fai qua? E lui risponde: e non ci hanno fatto cambiare niente. E allora gli ho detto: va bene, avete vinto voi, ma almeno non potrete considerarmi vostro complice. Così gli ho detto. E sono venuto qui. Il Monopoli è un gioco? Forse. O forse no. Forse si può pensarci su, si può riflettere, si può non essere complici, cooperare, condividere, provarci almeno. Oppure ritirarsi in una metaforica isoletta greca, senza passare dal via. Yeah.